Rassegna eventi. Quanti ricordi per gli ascoltatori e le ascoltatrici Wombat. E voilà. Chissà se qualcuno l'ha riconosciuto. Buonasera a tutti e tutte. Siamo dalla Tana del Wombat e siamo in una formazione che probabilmente non avete ancora mai sentito, perché oggi iniziamo un programma nuovo. Si chiama, compagni, la tra tra tra tra la tra tra tra tra tra tra tra tra la trapunta. La trapunta, esattamente. Il programma che copre tutti gli eventi degli spazi liberati della città. Sì, è un po', fra l'altro è una cosa non nuova, avete sentito la sigla, l'avrete sicuramente conosciuta, era la vecchia rassegna eventi, quest'anno la facciamo in modo speciale. Siete in ascolto di Radio Wombat, probabilmente la state ascoltando sulle frequenze medie, 1359, oppure se proprio non ci arrivate, state ascoltando con lo streaming dal blog wombat.noblogs.org. E cos'altro si può dire? Non lo so. Brevissimo, ottimo. Ah, se ci vogliono ottimo scrivere, inizio. Se ci volete scrivere, lo dico subito, ma lo ridiciamo anche dopo sicuramente per ricordarvelo. Posta wombat@insiberi.net, qualsiasi segnalazione di eventi e non eventi o accadimenti nella città di Firenze e oltre. Siamo qua per voi. Dunque, perché? Perché la trapunta? Di cosa stiamo parlando? Sì, iniziamo dal nome. Questa trapunta ha un'origine e viene da una punta. Quello che comunemente intendiamo a Firenze punta vuol dire dai, ci si becca al, non lo so, posto X. Può essere al bar, può essere in uno spazio, può essere sul muretto di una strada. Ecco, l'importante è darsela per poi incontrarsi. A Firenze tutto questo succedeva in modo un po' caotico, visto che ormai gli eventi ci arrivano sempre da le notizie e gli eventi ci arrivano sempre da, insomma, da molteplici realtà e si arrivano tutti disconnessi, quindi si accavallano, sei sempre indeciso sul quale scegliere. Però da quest'anno, un po' sull'onda torinese, come poi ci faremo spiegare, è comparsa a Firenze una piattaforma che si chiama lapunta.org, che ha proprio il compito di riunire tutti gli eventi degli spazi liberati, soprattutto in area fiorentina, diciamo non prettamente esclusivamente Firenze, ma ci possiamo anche un po' allargare. Questo è, non si, si tratta fondamentalmente di un calendario evento dove ognuno, richiedendo alle persone giuste, può iniziare a caricare i propri eventi, a patto che questi eventi siano buoni, giusto? Ho detto troppo? Ineccepibile. Poi chi sono le persone? Chi sono non ve lo diciamo, però potete scrivere a noi intanto, come dicevo prima, postawombat@insiberia.net. Esatto, giusto? Tutto qua. No, tutto qua non è... Finisce, si chiude, no. Dai, mandiamo una canzone. Poi vai, mandiamo una canzone e poi vi spieghiamo dei fatti di che cosa si tratta. Scusate, è un po' che non andiamo in onda, ancora non abbiamo ripreso la mano. No, ma sei tu quello bravissimo, no, siamo noi che ci dobbiamo scrostare, sì, un po' di ruggine. No, non è vero, però nel senso, questa cosa dell'emozione di andare in onda dopo tanto tempo, ce l'avete un po'? Sì, tantissimo. Dai, anch'io, vai. Go. My blood brother is an immigrant, a beautiful immigrant. son. He's strong, he's earnest, he's innocent. My blood brother is Malala. A Polish butcher is made of flesh, he's made of love, he's made of you, he's made of me. Unity, fear leads to panic, panic leads to pain, pain leads to anger, anger leads to hate. Radio Wombat è sicuramente la migliore. Noi non siamo i migliori di Radio Wombat, ma possiamo migliorare. Ma possiamo senz'altro migliorare, ben detto. E adesso qui vi facciamo sentire la voce del primo ospite di oggi. È Ginox della club fiorentino Ifdu. Ciao. Non sono l'unico ospite di oggi. Non sei l'unico. Sì e no. Non mi avevate detto. Fisicamente che presente esclusivo. Sei il nostro unico, in effetti. Ah, vabbè. Avremo ospiti telefonici. Sarà il nostro primo e ultimo ospite, tuttavia. E infatti, come primo ospite, noi ti volevamo chiedere a proposito della punta. Accennavamo prima alla nascita della punta. A Firenze, infatti, ci si dà una punta, come si dice a Firenze, mentre a Torino ci si dà un gancio. Ci si dà un gancio. A Firenze vuol dire un'altra cosa, ci si dà un gancio. Di solito vuol dire ci si dà un destro. Ci si dà un destro nei denti. No, a Torino è più pacifica la cosa. A Torino. Infatti, dei torinesi. Di un e-club torinese che si chiama Underscore, che è un e-club vetusto, e l'e-club sarebbe un luogo dove si trovano delle persone che pacioccano con le cose. È tutto molto generico, sì. E loro hanno avuto questa bella idea un annetto fa di scrivere un'agenda condivisa, e questa cosa nasceva in realtà da un progetto murario che aveva però il problema di essere murario, cioè erano un foglio che veniva affisso con gli appuntamenti di alcuni posti torinesi, principalmente erano in realtà gli squat, insomma i posti occupati torinesi, e però che esiste ancora tra l'altro questo foglio, solo che aveva questo problema appunto che essendo che veniva stampato per i 2 mesi successivi doveva trovare la programmazione dei posti 2 mesi prima, ma la maggior parte dei posti 2 mesi prima non sa bene cosa farà ancora, a maggior ragione se sono posti che magari sono a rischio sgombero, cioè magari tra 2 mesi non ci sono più, quindi ti sto dicendo c'è una cosa, ma poi non si sa se c'è. Certo. E allora loro hanno avuto questa idea di portare questa agenda condivisa su un oggetto webboso, e non di appoggiarsi su piattaforme già esistenti, essenzialmente perché sono tendenzialmente sovrabbondanti. E non è chiaro quasi mai l'intento preciso delle piattaforme, no? Sì. Cioè nel senso che tu, che ne so, usi le notifiche, che ne so, di Facebook, però non è che Facebook sta lì a regalarti le cose. Sembra, ma non è così. No. E poi vieni comunque catapultato in quel caos comunicativo che sono i social network, dove sostanzialmente te sparisci. Allora, loro, pensando che i nostri posti belli si meritassero qualcosa di meglio, hanno pensato di scrivere un software fatto apposta per fare una cosa semplice che poi è un'agenda condivisa. Questa sembra l'uovo di Colombo, cioè sembra una minchiata, e in realtà è una roba super utile. E noi l'abbiamo conosciuta, è stato presentato anche all'Hack Meeting qua a Firenze, e abbiamo detto lo vogliamo anche noi. E loro gentilmente ci hanno messo a disposizione il codice, e quindi abbiamo creato la punta, che è sostanzialmente un'agenda condivisa, diciamo, a tutto quello che avete detto prima. Questa è un po' la genesi dell'oggetto. Perché non c'è il www davanti? Perché non va più di moda. È vero, cioè, se i domini, quelli nuovi, sono così. Cioè, se vuoi essere un po' avanti, un po' cool nel mondo del web, il www non c'è più, è roba vecchia. Yeah, siamo cool allora. No, in realtà la punta, cioè, sfrutta un sacco di tecnologie che saranno le tecnologie cool dei prossimi anni. Veramente. Davvero? Cioè, nel senso che noi non le usiamo assolutamente, no? Però, ad esempio, ha degli agganci con... utilizzerebbe un protocollo che si chiama Active Publishing, che è una di quelle robe che si stanno spingendo un sacco per lavorare alla meccanismi di decentralizzazione del web, che è una roba un po' complicata, ma l'esigenza in realtà è sentita da più parti, anche da quelle che ti potresti aspettare di meno, nel senso che attualmente il web è stato costruito, si è evoluto su grossi monopoli. E questo, se sembra un'evoluzione naturale di qualsiasi sistema sostanzialmente capitalista, e sul web ha un sacco di gente, anche di non necessariamente i soliti, diciamo, quelli che si lamentano sempre di tutto, tipo me, però anche ad altri dà un po' noia, essenzialmente perché, boh, perché il capitalismo liberale crede in questa cosa della concorrenza perfetta, quindi il monopolio danneggia tendenzialmente il mercato. Solo che ormai l'hanno fatti crescere e non sanno più come smontarli. E quindi c'è un tot di progetti che non sono finanziati da noi, non sono la punta, hanno magari anche della grossa gente dietro, che vorrebbero costruire dei meccanismi sostanzialmente per ridistribuire tutta questa mole di informazioni e farla tornare, cioè cercare di costruire un web in cui non ci sia un unico punto che che sì, addensa tutta questa roba. E una delle tecnologie messe in campo per fare questa cosa è sto Active Publishing. E poi si parla di Fediverso, di Mastodon, che è una cosa di cui si parlò anche anni fa qua, proprio insomma a Firenze in alcune occasioni. E ci sono degli agganci tra questo oggetto che noi abbiamo, che noi non abbiamo ancora messo in atto, però degli agganci tra il Fediverso e la pubblicazione di questi eventi. Quindi a un certo punto tutte queste cose che vengono messe sulla punta finiranno anche in qualche forma nel Fediverso, quando ci sentiremo pronti. Gancio lo fa già, noi non ci sentiamo pronti ancora. Fantastica questa cosa. Grande avanguardismo, sì sì, per la punta sì. Radio Wombat. A proposito di avanguardismo e cose tecnicose, Bricobaldo, possiamo anche ricordare che chi ne volesse di più, stasera sicuramente. Verissimo, stasera sicuramente alle 21.30 va in onda a Coccoli al Ziliscio con il nostro Gino. Che sono sempre io. Che è sempre lui, quindi lo potrete ascoltare a ruota libera, si può dire, sei da solo davanti a un microfono. Sono da solo, forse la prossima settimana avrò per alcune settimane un amichetto. Ecco, comunque, quanto è? Già un paio d'anni? È reale l'amichetto. Se no, vero, non è il mio amico immaginario, lo faccio anche parlare, non sono io che faccio due voci, giuro. No, no, è proprio un'altra persona. Che parlerà in realtà di una cosa molto figa, che è... sostanzialmente è uscito adesso un film sulla figura di Edison. La contropartita, quella un po' più gotica, di Edison e Tesla. E Tesla sarebbe, cioè, anche nei giri di solito viene citato come quello un po' matto, così. Sì. Invece noi non abbiamo pietà per nessuno e parleremo malissimo anche di Tesla. Bellissimo. Vai. Bellissimo, non vediamo assolutamente l'ora. Comunque noi ti abbiamo chiamato anche per un altro motivo, perché, come dicevi, la club, quello fiorentino invece, che si chiama IFDU, se non mi sbaglio, ha caricato un evento su La Punta, che è previsto per mercoledì, e si parla di Thor. In particolare c'è una persona che viene. Sì, è stato un incastro fortunoso. Sostanzialmente c'è da un po' di tempo in Italia a farsi gli affari suoi, credo, uno degli sviluppatori di Tor Project, e che a un certo punto ha deciso di iniziare a girare l'Italia, visto che penso se ne stia per andare. Ha detto: prima di andarmene faccio un giro, e vuole fare alcune conferenze su Tor. Quindi è una roba, per chi non lo sapesse, vabbè, Tor è un sistema di navigazione anonima, dove per anonimato si intende qualcosa come può essere l'anonimato sul web. Cioè il web è, in generale internet non è stato pensato per essere anonimo, ecco, più che del web parliamo proprio di internet. Non è stato pensato così, e da qui nascono un sacco di problematiche, nel senso che dà un sacco di informazioni su di te. E anche per questo che, come dicevamo prima, c'è gente che tende a ammassare le informazioni un sacco, perché è facile farlo, perché su internet tu non hai verso di fare l'equivalente che faresti tipo mandando una cartolina, che tendenzialmente è un gesto anonimo, no? E invece sul web non c'è verso di fare questa cosa. E Tor interviene in questo senso, nel senso che si inventa un modo per fare l'anonimato, che è essenzialmente quello di costruire il tuo traffico dentro una specie di lavatrice e buttare fuori una vittima sacrificale, che è quella da cui, una o più chiaramente, da cui il tuo traffico risulta provenire. Quindi non è, cioè è strano quando si parla di anonimato, non è che è un anonimato, è solo che c'è uno che s'accolla del traffico di tutti, e dietro c'è una specie di lavatrice, per cui quando il traffico parte dalla mia macchina finisce in questo rimpallo di computer, essenzialmente, di robe, e poi alla fine da uno di questi, che sono i nodi pubblici, esce. E quindi io quando vado a visitare un sito o faccio qualcosa su internet, quello che risulta è l'indirizzo di quest'ultimo nodo. E perché c'è una cipolla che lo raffigura? Perché diciamo questo qua che loro chiamano l'onion routing è questo routing fatto a cipolla. Cioè io vado da uno a strati e l'ultimo strato è quello di uscita. È nato così. È un progetto che esiste da anni, non è un progetto particolarmente che potremmo identificare, diciamo, fa una roba utile, ma non è che l'hanno fatto, diciamo, persone tendenzialmente per forza simili a qualcosa di sinistra, ecco, se volessimo dire. Cioè non è detto. È semplicemente quello che è, cioè è un progetto per... Ci sono alcuni personaggi interni al Tor Project che sono persone particolarmente simpatiche, e uno di questi qua è... Sarà mercoledì. Esatto, sarà mercoledì. E dove lo vedremo? Allora, all'Emerson, iniziamo diciamo più o meno verso l'ora di cena, verso le 8 all'incirca. E quello che vorremmo penso affrontare con lui, poi dipenderà un po' da chi c'è, nel senso che lui sarà aperto alle domande in realtà, quindi la discussione andrà dove vogliamo noi, potrebbe essere molto tecnica ma anche molto divulgativa. Sicuramente parleremo di una cosa nuova che è uscita relativa al mondo Tor, che è praticamente un nuovo protocollo che però ha anche un appendice per l'utente finale. Cioè se uno vuole dare una mano alla rete Tor ma non si accolla di gestire un nodo Tor, perché comunque non è semplice da fare, avrei anche delle beghe legali a fare l'exit node, no? Però hanno sviluppato adesso un cosino da mettere sul proprio browser, cioè che in realtà c'è per Firefox e per Chrome, solo per questi due, che permette di, se tu sei in una rete non censurata, permette di fare una specie di pezzettino di questa lavatrice che vi dicevo, offrendo una parte della propria banda a fare l'effetto lavatrice. Cioè diventi una specie di proxy della rete Tor. Non sarai quello che esce, quindi non finirai nei guai per questo, però aiuterai quei paesi nei quali magari invece ci sono reti censurate a avere un appiglio sicuro per fare questo giro, perché molto spesso il problema di uscire dalle reti censurate è quello che, se il tuo traffico non sembra innocuo, viene visto. Quindi mettendosi in questa specie di grossa lavatrice si può dare una mano in questo senso, ed è una roba che è uscita mi sembra da un mesetto, no? Cioè da poco che l'hanno sviluppato per bene, e quindi noi vorremmo provare a farci spiegare questa roba qua, che lui sicuramente conosce meglio. Che figata, veramente bellissimo. Io una domanda te la voglio fare. Sì. Ma se io prendo un Tor, va bene, sì. Alla fine è una sorta di un programma. Io parlo da un programma. Di solito lo usi con un oggetto che si chiama Tor Browser. perché esatto, è un pacchettino già fatto che ti apre il browser già messo su Tor, e quindi è la versione veloce. Ecco, quindi io diciamo raggiungo questo anonimato, poi comunque possono vedere chi volesse può vedere che cosa sto facendo, però non riesce fondamentalmente a rintracciarmi. Con questo Tor posso accedere, che ne so, a una casella mail o oppure a una qualsiasi piattaforma che richiede i miei dati e rimanere invisibile? Senti, dipende un po' dalla piattaforma, nel senso che tempo fa, ad esempio, forse ancora adesso, cioè tipo Google, siccome questi exit node in realtà sono pubblici, e quindi tipo Google, se tu arrivavi da Tor, ti chiedeva di dimostrare che non eri un robot, ma bensì una persona, e ti faceva risolvere i puzzle, quelli maledetti, no? Queste robe qui. Altre piattaforme invece ti permettono di accedere, però è un po' a discrezione, perché essendo che la lista dei nodi è pubblici, io effettivamente potrei dire, ma io non voglio niente che arrivi da lì. Però è anche vero che ci sono i nodi pubblici, però tendenzialmente cambiano, e poi è comunque possibile aggirare delle liste così banali. Quindi sì, tendenzialmente riesci a fare quasi tutto quello che vuoi su Tor. L'unico problema con il Tor browser è che lui disabilita una cosa che però nel web del 2019 utilizzano un sacco di siti, che è il JavaScript, che è sostanzialmente un linguaggio che rende più fume, cioè è utile per tante cose, però l'effetto che c'ha diciamo è che molti siti che si basano su quello, se li visiti senza quella roba lì, ti dicono proprio io non funziono, e allora lo devi riabilitare solo per quel sito. Okay. E quindi diciamo l'utilizzo di Tor non è, cioè è banale, ma non è proprio banalissimo, cioè un pochino di impegno ce lo deve mettere, e anche perché ha un sacco di cosine che vanno prese come, non come una professione di fede, ma come una procedura da seguire obbligatoria. Tipo lui ti parte a una dimensione e ti dice però non farmi più grande di così, perché questo aiuta a rivelare, a rendere unico il tuo, diciamo, il tuo modo di navigare. Sì. È una roba un po' complicata, però è strano. Su internet praticamente c'era un progetto molto figo che faceva vedere come tu, soltanto navigando con un certo browser, in realtà ricadevi in una categoria ben precisa, data dal fatto che ogni volta che tu visiti un sito dici un sacco di cose su di te, dici la risoluzione, dici che è il sistema operativo, dici la versione del browser, dai un sacco di informazioni, e quindi loro ti facevano rientrare in una casistica dove dicevano guarda, tu sei uno su 10.000, sì. E dici no cavolo, ma ce ne sono, cioè lo usano miliardi di persone internet, come fanno a farmi rientrare in uno su 10.000? Però era così, cioè ti facevano rientrare precisamente. Quindi Tor, per renderti diciamo più anonimo, lui ti dice non so, non fare la finestrella più grande. E però uno, se non ci vede bene, la prima cosa che fa la fa più grande. Quindi cioè è un attimo in realtà avere questo anonimato, e poi magari perdersi. Non è che lo perdo facendo così poco, però diciamo che sono quelle cose di un mondo estremamente paranoico. Già sono molto bravi a renderlo così semplice, cioè nel senso che sì. Però è comunque un mondo di paranoia. E poi comunque un livello in più di lavoro è sicuramente richiesto, anche per acquisire una consapevolezza di quelli che sono gli strumenti pervasivi dell'internet, e dunque è un pochino sì. È giusto anche, penso io che sia così. È un mondo tanto difficile. Quindi sulla punta.org, eventi appunto, invece è facile da fruirne, facile sì. Da utilizzarla. E dunque, sulla punta.org, eventi singoli come questo di mercoledì all'Emerson, eventi ricorrenti come, a proposito dei mercoledì all'Emerson e della club LIFDU che si riunisce ogni mercoledì sempre all'Emerson, e quindi c'è la possibilità sulla punta. C'è da dire che se volete vedere gli eventi ricorrenti, sì, diciamo, in realtà sì. C'è un tastino in alto a sinistra, la lente di ingrandimento, esatto, per selezionare, che è un tasto per le ricerche in realtà, e da lì potete selezionare se mettere o togliere gli eventi ricorrenti, perché l'effetto che ci sta mettendo gli eventi ricorrenti è effettivamente di riempire molto lo schermo di cose, sì. Quindi noi di default li abbiamo tenuti disabilitati, e per abilitarli è necessario muovere questo tastino, che è l'unica cosa attiva poi richiesta all'utente, sì. Insieme alla possibilità di vedere o meno gli eventi già passati, che anche sì. Quella di default è disabilitata. Esatto, sempre perché per evitare un po' che lo strumento diventi troppo caotico, sì. Cioè è vero che secondo me è anche molto gentile ed è uno scrupolo, perché la maggior parte degli strumenti che normalmente le persone utilizzano sono molto più caotici di così, cioè sì. Sono un gran paciocco, e quindi però c'era, l'abbiamo messo. E noi abituiamoci, grande, direi, grande, a usarlo, e diamo magari uno stacchetto musicale, una canzoncina, e dopo vi iniziamo a raccontare quelli che sono gli eventi della settimana che inizia qui su Radio Wombat, qui sulla Trapunta. Lunga vita Radio Wombat. Dai. It's a typical story where the bassist kills the singer, the guitarist and the drummer find they're in love with each other. It's the story of the kid who clearly won't know what to say when the love of his life starts to calmly walk away. And it's the story of the dad who decides to chase his dream, he quits his job, he falls apart and he loses everything. And it's the story of the kid who just wants to make a record, loves and crafts it, but nobody ever, ever cares about it. Whoa. Afraid of everything staying the same or worsening, so what's the point of finding calm when calm to me is unsettling? Settle down, little kid, your bones are shaking in your skin. Go and try and take a breath, though. Nothing more, nothing less. Typical story of the king who had it all, except for citizens who didn't want his head up on a wall. It's the typical story of the wife who couldn't quit being in love with such a giant piece of shit. It's the story of the queen who could never ever think of any redeeming qualities a man could ever bring. I don't really need much, just a place to be alone, and you don't really see much. I think that I'm invisible. My mirror shows another guy. A guy doesn't do shit, he just sits and is miserable. Everybody's gotta live a life that they didn't ask for. Why would he put me here just to die? Questo era Hobo Johnson, per chi non lo conosce. Spacca, mio sono amico. Sono a Firenze? Ha caricato qualcosa sulla punta? Sì, sì, ora lo invitiamo su Radio Wombat proprio. Allora, si inizia con questa rassegna, dai. Ah, certo. Aprendo la punta.org ci compare davanti un calendario di novembre 2019 con tutti i giorni. Una bellissima grafica. Una bellissima grafica. E su ogni, appunto, sulla sinistra ci sono un po' di spunte. Quel tasto cerca. Stiamo facendo come se la prima volta che apri la punta. Esatto. Quello che vedi. Sì, l'unpacking, come si dice. Proprio. E su ogni giorno ci sono dei pallini che rappresentano gli eventi. Si inizia da oggi, che è lunedì 4 novembre. E c'è un evento che purtroppo, diciamo, sono le 17.06, quasi finito, perché c'era un presidio all'università, al Polo di Novoli, per un incontro con Donzelli. E quindi il Polo di Novoli si mobilita per far sì che il nostro caro amico Donzelli si levi dai baroni. Compagno Donzelli. Compagno Donzelli, sì. E sempre oggi invece alla Sala delle Leopoldine in Piazza Tasso, il numero 7, stasera alle 9 si terrà un incontro pubblico che per parlare della questione del nuovo del parcheggio in piazza del Cestello. Infatti l'incontro pubblico chiama su fatti e misfatti l'assurdo progetto di un parcheggio interrato in piazza del Cestello e la gentrificazione in Oltrarno e nella città storica. Quindi si è detto stasera alle 9 con il comitato Oltrarno Futuro nella sala delle Leopoldine in piazza Tasso. Sì, fra i relatori tra l'altro vi sono delle vecchie conoscenze, Antonio Fiorentino di Per un'altra città con tutta la sua ricerca sul tema, poi abbiamo Grazia Galli invece dell'associazione Progetto Firenze e poi Paolo Baldeschi. Paolo Baldeschi, anche Paolo lui lo conosciamo bene, urbanista. Un urbanista e altra urbanista è anche Margherita Signorini. Maria Rita. Maria Rita, diciamo, insomma, Signorini, va bene, ci perdonerà. Eh sì. Sempre a proposito di lotte studentesche e mobilitazioni in settimana, il giorno dopo, il martedì 5 novembre, all'ora di pranzo, dalle 12.30 alle 14.30, in aula Murales all'Università di Agraria in Piazza delle Cascine. Agraria non ha una mensa, ma all'università non importa. Questo è lo slogan con cui lanciano la giornata. Infatti questo tre venerdì fa il ristorante Time Out di Via Paesiello, che era convenzionato, ha chiuso i battenti, non rinnovando quindi l'ARSU alcun servizio agli studenti, che si ritrovano adesso senza una mensa. Questo è un pranzo in università in cui viene chiesta appunto la immediata riattivazione di un servizio di mensa, il fatto che venga adibita un'aula alla preparazione e al consumo di pasti in università. Viene aggiunto, ma non ci fermeremo qua, siamo stanchi che il nostro diritto allo studio sia costantemente sotto attacco con la cancellazione delle borse di studio, l'innalzamento delle tasse e l'abbandono delle residenze universitarie. Se l'università vuole ignorarci, faremo sentire la nostra voce. Questo l'appello del collettivo degli studenti e delle studentesse di Agraria. Sì, fra l'altro avremo l'occasione di sentire la loro voce fra poco, perché ci collegheremo con uno degli studenti del collettivo di Agraria. Poi a mercoledì, come dicevamo, al CSA Next Emerson c'è una serata della club Internet Anonimato, dove appunto si spiega la questione dei Tor. Quasi Onion Routing. Lo stesso giorno, leggermente più tardi, ma altrove, c'è una bella proiezione allo studentato autogestito Ponte di Mezzo 27, proiettano Antropocene, un bel documentario sulla questione climatica e ambientale. E sempre a proposito di film, il giorno dopo, il giovedì, e sempre in ambito studentesco, al studentato del... al polo scientifico, scusate, di Sesto Fiorentino, Ecce Pizzette, il Cile Forum del polo. Cosa viene trasmesso? Il caso Spotlight. Ben detto. Eh sì. Non ci fermiamo, perché andando a venerdì c'è un appuntamento presso il centro sociale Camillo Sanfuegos, serata OI con lo storico gruppo bolognese, se non mi sbaglio, Nabat OI. Sì, esatto, bolognese. Di qui dopo forse facciamo sentire un pezzo. Poi, ma non solo, perché c'è anche Uguaglianza, uno street punk da Savona, Mad Beats, che è un punk rock invece da Torino. E un altro storico gruppo fiorentino invece, non così storico perché da un annetto che esiste, ma nei nostri cuori lo è già. Ma gli Iena. Oh yes. E dai, Quindi Camillo Sanfuegos, che si trova in via Chiella 4 a Campi Bisenzio. L'evento inizierà alle ore 22 e andrà avanti fino alle 3 di notte. Sabato invece c'è una grande novità in città, perché verrà presentato in Polveriera nel pomeriggio dalle 5 alle 11 un nuovo corso di danza che troverà spazio nella palestra autogestita appena rinnovata in Polveriera. E, corso di danza contemporanea, vero? Sì, corso di danza contemporanea. La presentazione inizia alle 5, poi segue aperitivo e musica. By Radio Wombat, ovviamente l'unica radio in città. L'unica radio in città. L'unica, certo, radio in sì. città. Sì, presenti. Chiudiamo anche, obiettivamente la migliore anche. Da sempre. Da sempre, come da sempre, davvero, si svolge la Roda di Capoeira ogni domenica, una domenica al mese in Polveriera. Questo mese per novembre sarà domenica 10, dalla mattina alle 11 fino al pomeriggio alle 19, si chiude con un brindisi e un aperitivo, allenamento e divertimento tutto il giorno con i capoeiristi di Polveriera. Aperto a tutti e tutti sempre benvenuti. Buono. E se questo è tutto, facciamo sentire una canzone dello storico gruppo Nenabat. Tutti siamo d'accordo? Certo, siamo d'accordo. Poi magari ci colleghiamo anche con il compagno al presidio. Avanti. Viva. Yeah. Eccoci tornati. Eccoci. Siamo, il regista è andato via, quindi potrebbe succedere veramente di tutto. Perché ci sono io, il regista. Perché ci sono, no, perché ci sono anch'io di supporto. E quindi veramente potrebbe succedere tutto. Ma noi abbiamo in programma una telefonata e ci collegheremo con Francesco, che è un compagno del collettivo di Agraria, che ci spiega meglio la questione della mensa. Telefoniamo? Dai. Dai. Si stacca un attimo la musica, attacchiamo il telefono e in tempo reale sentirete se forse il nostro fallimento, speriamo, di no, oppure il nostro successo. Intanto ho la mail aperta, nessuno ha scritto, a posto wombat@lenziberi.net, c'è l'ultima mail del CPA che ci ragguaglia, ci saluta e ci ragguaglia sulla guerra in Siria. Andiamo? Vai. Sì. Non è un buon inizio, Ale. E invece sì, dai. Stai sentendo? Si sente. Perfetto. Pronto? Francesco, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Francesco. Sei in diretta su Radio Wombat. E sei ciao ancora a tutti gli ascoltatori, grazie. Ciao. Senti, allora, noi ti chiamiamo per avere delle informazioni, soprattutto delle precisazioni riguardo all'evento che avete in programma domani, il pranzo in, alle cascine, per il problema della mensa. Quindi magari se ci puoi spiegare meglio di che cosa si tratta. Certo, sì sì. Praticamente che è successo? Che ad Agraria da quasi ormai un mese siamo senza mensa, e questo perché avevamo un ristorante che era convenzionato l'azienda regionale per diritto allo studio a fornire il servizio di mensa, e che scadeva per il quale scadeva il contratto all'11 di ottobre, e sapevamo già da quest'estate che il ristorante non avrebbe partecipato al nuovo bando che è stato indetto e che è scaduto in luglio e che poi è andato deserto. E diciamo che l'università e l'ARTU sapevano già di questo problema, avevano già idea che il ristorante non avrebbe partecipato al bando. Addirittura da maggio, leggiamo nel vostro comunicato che sì, lo sapevano. Sì, da maggio lo sapevano già e non hanno fatto niente per intervenire, ma anzi sono rimasti con le mani in mano. Noi abbiamo avuto durante l'estate una serie di incontri con l'ARSU, con il personale dell'università, tutti a rassicurarci sul fatto che entro la scadenza del bando per il ristorante sarebbe stato riattivato un nuovo servizio mensa, ma in realtà al momento non è stata trovata alcuna soluzione. E voi avete proposto niente, nel frattempo l'università cosa ha fatto? Invece di preoccuparsi di sostenere il diritto allo studio per noi, per Agraria, ma anche per tanti altri, ha pensato bene di investire 1,5 milioni di euro in un nuovo studentato privato che è Campus X, che è sorto accanto alla casa dello studente Calamandrei, non so se avete seguito la questione. Sì. Inoltre ha istituito anche una nuova commissione che dovrà andare a analizzare le tasse e tutto il sistema di tassazione degli studenti a Firenze per riuscire a raccattare ulteriori 5 milioni di euro all'anno da noi studenti. Quindi diciamo si è occupato di tutt'altro, si è occupato di favorire chi specula e di trovare modi per raccattare più soldi, mentre non si è occupato assolutamente del diritto allo studio, di fornire un servizio di mensa adeguato per gli studenti di Agraria. Ecco, fra l'altro voi avete anche proposto delle alternative, quantomeno di emergenza, poi magari ce le spieghi, però quello che ti volevo chiedere è, cioè, visto che lo sapevano da maggio e non hanno fatto niente, c'è un'intenzione, cioè era un'intenzione quella di lasciare un'università, un polo, si può dire il polo di Agraria, senza un servizio di mensa? O c'è altronaggine, che comunque non sappiamo forse quale sia peggio in effetti? Forse la saltronaggine, ma forse anche un'intenzione, non sappiamo bene. Sicuramente il fatto è che per Agraria l'intenzione di costruire una mensa ad hoc non c'è mai stata, perché appunto il polo di Agraria ormai da un decennio a questa parte si dice verrà spostato al polo di Sesto, è previsto lo spostamento verso il 2025-2026, ma tutto molto diciamo aleatorio, non si sa bene quando saranno effettivamente queste date realizzate. La mensa su misura non viene costruita proprio per questa cosa, perché necessita di 5-6 anni per essere ammortata come spesa. E inoltre lì nella zona delle cascine è molto difficile trovare un esercente disponibile a effettuare il servizio di mensa. Perché, perché le convenzioni sono basse, se non mi sbaglio. Come? Le convenzioni, cioè quanto viene, cioè la necessità sì. di un esercente che dia la disponibilità per circa 200 pasti a pranzo, se non mi sbaglio, giusto? Che vengono poi rimborsati, sì. però con una cifra esigua da parte esatto. del DSU. Il problema è che il DSU dà solamente 5 euro a pasto per ogni studente all'esercente, di conseguenza i pochi esercenti ci sono alle Cascine, come potrebbe essere la piscina, ora mi sfugge il nome, insomma ci sono alcuni esercenti, alcuni ristoranti che però non gli andrebbero assolutamente bene questi 5 euro, infatti poi non partecipano mai ai bandi. L'unico ristorante che gli andava bene era appunto questo in via Paesiello, che ha fatto un bando durato 3 anni e poi ha deciso di smettere. Voi avete avviato una raccolta firme, vero? Noi abbiamo avviato una raccolta firme proprio per rilanciare un po' queste nostre rivendicazioni, che appunto noi in seguito a questi incontri durante l'estate eravamo riusciti a strappare un po' una prima promessa che entro ottobre sarebbe stato attivato un servizio di emergenza di trasporto pasti dalla mensa di Novoli direttamente ad Agraria, i pasti freddi, che comunque non è diciamo quello a cui aspiriamo, però sarebbe stato un primo salvataggio, diciamo, per tutti quegli studenti che non possono permettersi di andare tutti i giorni a pranzo al ristorante, appunto pranzo, a spendere 7-8 euro 10 euro al giorno, certo. E ovviamente questo è rimasto solo una promessa, questa cosa, e non è stata messa in pratica. Quindi noi al momento rivendichiamo, con questa raccolta firme, rivendichiamo questa promessa qui, che venga immediatamente realizzata, e ulteriormente poi che venga individuata al più presto una stanza o un'aula, quello che abbiamo disponibile nel presso delle Cascine, che possa essere messa a disposizione per effettuare un vero e proprio servizio mensa, quindi che venga allestita o i pasti trasportati, che vengano riscaldati, oppure anche se meglio ancora per poterli proprio cucinare in loco. Sì, certo. E, al momento noi tra l'altro sappiamo che ci sono delle stanze disponibili per questo tipo di servizio, e anche l'ARSU ha già scritto diverse volte al direttore di dipartimento, al nostro presidente, per avere la possibilità di fare un sopralluogo per individuare questi luoghi, e il problema è che non c'è questa necessità, non viene recepita dal rettorato. Quindi in sostanza l'unico responsabile al momento della situazione di stallo è il rettore. È il rettore. Perché, sì, perché deve, questa richiesta deve venire espressamente chiesta dal rettore. Bene, quindi, tra l'altro oramai siete veramente in rapporti ottimi con il rettore, visto l'uscita che ha avuto giusto una settimana fa. Ti volevo chiedere infatti cosa ne pensate della questione degli spazi che poi voi gli studenti portano avanti da tanti anni, però che si vedono sempre ogni anno via via ridurre gli spazi sia per gli incontri, ma in questo caso la polemica era sulla questione delle feste universitarie, che secondo lui sì. dove fra l'altro il rettore in persona ha mandato la Digos più volte e ora minaccia di non dare più l'università. Questo che cosa comporta e che cosa ne pensate? Ma allora, innanzitutto c'è da fare chiarezza sul comunicato del rettore. Il rettore spiega che da ora in poi non saranno più permesse iniziative, ma in realtà noi dei collettivi, vari collettivi fiorentini, non abbiamo mai autorizzato le nostre iniziative, l'abbiamo sempre fatto in occupazione, quindi nulla è cambiato in sostanza nel processo, diciamo, di concessione dello spazio. Almeno da parte nostra, il collettivo d'Agraria, noi non abbiamo mai fatto le procedure di autorizzazione delle iniziative, perché sono procedure assolutamente gambizzanti, cioè hai bisogno di avere un'assicurazione sugli spazi per quello che succede, chiamare una ditta esterna per la pulizia, rispettare un sacco di termini legislativi che sono impossibili da rispettare. Quindi sì. In sostanza è una procedura che non permetterebbe mai di effettuare alcuna iniziativa serale. Quindi in sostanza per noi non è cambiato nulla, semplicemente adesso sappiamo che il rettore ha un po' minacciato un possibile intervento di forza pubblica, quello che per adesso non c'è mai stato, per fortuna noi nonostante le occupazioni, nonostante appunto le rivendicazioni che facciamo sui nostri spazi, poi alla fine non abbiamo mai avuto necessità di doverli difendere veramente con le unghie fino ad ora. Adesso diciamo c'è un po' questo, potrebbe presentarsi questa cosa, però la nostra risposta comunque rimane la solita, rimane quella della lotta, rimane quella di rivendicare i nostri spazi, di l'università e degli studenti, di chi la vive, non è di certo di un rettore aguzzino che vuole soltanto mandarci fuori dall'università, ha pensato addirittura di mandarci all'interno di una discoteca. Sì. Sono assolutamente idee fuori luogo che noi ricettiamo completamente. No, fra l'altro, come a mio parere, poi magari voi la pensate diverso, però a mio parere è totalmente fuori luogo invece l'apertura del comune rispetto all'utilizzo di spazi invece dati, concessi e quindi poi magari anche in un certo senso patrocinati dall'amministrazione comunale per eventi insomma studenteschi. Sì, sì, assolutamente, anche noi siamo d'accordo completamente con questa cosa, perché appunto essendo processi, anche una semplice iniziativa è un processo condiviso che avviene in seguito a diverse date, diverso tempo di costruzione di quell'iniziativa, è un processo che noi rivendichiamo e che non vogliamo che venga gestito anche solamente patrocinato da una realtà come potrebbe essere il Comune di Firenze, con la quale noi non abbiamo niente a che vedere. Ma io ti volevo fare un'altra domanda. Ci hai accennato diversi temi come la questione delle residenze, ma in generale secondo voi quali sono i temi più attuali di lotta nei riguardi del diritto allo studio che viene meno? Cioè, avete anche voi accennato alla fine del vostro comunicato questioni come la cancellazione delle borse di studio, l'innalzamento delle tasse, oltre a quelli di cui abbiamo parlato fino adesso. Immagino anche il numero chiuso e queste questioni siano all'ordine del giorno. Per voi cosa è più urgente, su cosa c'è da lavorare innanzitutto? Ecco. Diciamo, noi come collettivo d'agraria, essendo una realtà piccola, appunto dedicata principalmente alla scuola d'agraria, sì. Al momento noi portiamo avanti questa lotta importante, è quella per la mensa, visto che comunque il diritto alla mensa dovrebbe essere un diritto inalienabile per qualsiasi studente, soprattutto appunto per fare la lotta al classismo che avanza sempre di più all'interno dell'università, perché tramite appunto i tagli allo studio, i tagli all'istruzione e l'innalzamento dei costi in tutte le maggiori città, come avviene anche a Firenze, quindi gli affitti, il mangiar fuori, eccetera, portano ovviamente a aumentare sempre di più il divario tra chi può studiare facilmente e chi invece per poterlo fare deve fare mille lavoretti, e questo ovviamente sì. Comporta l'innalzamento del classismo all'interno dell'università. Quindi noi all'interno agraria al momento portiamo avanti questa lotta importante. Bene. Ovviamente poi con diciamo coordinandoci con gli altri collettivi, poi anche con studenti di sinistra, il collettivo diciamo d'Ateneo, cerchiamo per quel poco che possiamo di richiedere, cioè portare avanti le stesse lotte che si portano avanti ormai da 30-40 anni a questa parte, quindi rivendicare un maggior contributo di fondi statali all'istruzione, alla ricerca e poi fare la lotta contro appunto questi grandi studentati privati che nascono, che vengono tuttora finanziati anche dalle università come Campus X, ma come poi le varie student hotel sì. Un po' attualmente purtroppo il diritto allo studio è sotto attacco da ogni parte, è innegabile, siamo veramente alle strette e al momento se non ci alziamo ora, non iniziamo a lottare adesso, rischiamo di ritrovarci fra pochi anni con un'università pubblica praticamente disastrata e invece poi con la nascita e la crescita sempre maggiore dell'università privata. Benissimo, io sono totalmente d'accordo, sì, è veramente una situazione sì. Preoccupante. Fra l'altro tu adesso sei all'università, al Polo di Novoli, mi dicevi sì. Poco fa, abbiamo visto, c'era un evento, c'era un presidio contro la persona di Donzelli in particolare, come sta andando, come è andato? Sì, il presidio si è sciolto ora. In questi ultimi 5 minuti abbiamo parlato, siamo tornati allo spazio autogestito del collettivo politico e è andato direi abbastanza bene. Abbiamo disturbato alla grande questa lezione di lobbying di questo fascista Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e l'ultimo che dovrebbe parlare anche all'università, perché tra l'altro ha provato per tipo 15 anni a prendere una laurea in scienze politiche e non ci è riuscito. E niente, all'interno dell'aula non c'era nessuno, erano, non ho visto, ma gli altri compagni parlavano di una decina, compresi i relatori, e difesi da un plotone di polizia e Digos enorme. E Donzelli non siamo riusciti a vederlo in faccia perché è stato scortato fuori dalle uscite posteriori, però abbiamo visto i paladini di Azione Universitaria, che sono appunto questi deficienti fascisti che hanno promosso questa iniziativa all'interno del Polo di Novoli, e li abbiamo visti anche loro difesi dalla polizia. C'è stato un po' una decina di minuti di infamate da parte nostra e niente, poi se ne sono andati con le gambe con la coda fra le gambe, e difesi dalla polizia come sempre. Sì, storia nota. Sì. Purtroppo. Comunque, presidio, direi tutto sommato è andato bene, e abbiamo fatto tanto casino, la gente se n'è accorta, e speriamo che gente come questa non torni più. Speriamo. Ovviamente, insomma, e noi staremo comunque sempre allerta. Continueremo a cacciarli dall'università. Ben detto. Bene, molto bene, Francesco. Allora, ti ringraziamo per il contributo tuo e di tutti i compagni e le compagne del collettivo, e in generale, insomma, tutti gli studenti e le studentesse attive nella politica universitaria e non. Avete sicuramente un ruolo centrale in tutti i temi degli ultimi anni. Ci risentiremo. Grazie. Anche seguiremo come vanno. Grazie a voi. Rilancio l'iniziativa di domani a mezzogiorno e mezzo al Polo delle Cascine, pranzo con raccolta firme per portare poi le nostre istanze al rettorato, e appunto un'occasione per firmare e per informarsi su questo tema. Perfetto, bene, grazie mille. Ci vediamo lì. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ecco il prodigio tecnico di Radio Wombat. Incredibilmente ci siamo collegati senza alcun problema. Sì, sì. Vediamo se stacca e riattacca il cavo. Funziona. Funziona tutto. Prodigi tecnici qui su Radio Wombat. Allora, canzoncina e poi ci salutiamo. Che ne dici? Dai, buono. Avanti. La seguente? No, no, no. No, lo scelgo io. Abbiamo gli Iena questo giovedì al Cienfuegos. Questo venerdì. Venerdì. Dopotutto, domani... È una bella bestia. Vecchie glorie di Fuoco alle Polveri, anche questa era la rubrica degli animali, tenuta da Joao. Chissà se risentiremo la sua voce, se ci sta ascoltando. Siamo... sentiremo, secondo me, alla grande. Dai, dai. Siamo alla fine, siamo all'epigolo. Epitome. Epiteto. Epiteto. Pie veloce. E video di Pie veloce, vi diciamo quando riascoltarci, possibilmente, se... da palinsesto potete consultarlo. Abbiamo due repliche, una è il martedì alle 18, alle 16:30 e l'altra è il giovedì alle 13. Non scordatevi di visitare la punta.org, troverete tutti gli eventi. Fra l'altro, settimana prossima ci sono veramente veramente un sacco di cose molto interessanti sulla punta, potete guardarle già da ora, non vi anticipiamo niente perché ancora non abbiamo deciso che cosa passare, però diciamo che tendenzialmente si aggirerà intorno ad eventi qual la presentazione che andrà in diretta del Airbnb Città Merce di Sara Gainsford, della Rete 7 Roma, e poi ci sono una serie di eventi su tema no aeroporto a favore del Parco della Piana, sia sabato che domenica, si sta parlando del 16 e 17 novembre naturalmente, però diciamo, e noi ci dilungheremo antico. Comunque la settimana prossima ci dilungheremo su questo. Queste cose, siamo del resto qui apposta. Bene, allora dice il capitano qua, Lapo, l'ex regista appena ritornato, che se vogliamo c'è un minuto e mezzo di goduria prima della chiusura. È permesso o ci salutiamo? Ci salutiamo, è comunque è permesso, direi. Dai, allora, rubiamolo un minuto e mezzo, va. Dai, Oh, noi a settimana prossima con la trapunta. Sì. Il lunedì alle 16:30. Tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra. Mentira! Rassegna eventi. A lunedì prossimo.